Talk, Sputnik on Radio. Talk con Chiara e Marta, 94.7, 96.250, che sta per... Marta? Per cosa? Città del Capo, Radio Metropolitana. E diamo subito le coordinate, insomma, del nostro blog. Sto interrogando. Blog è montocredio.blogspot.com. Invece, sì? Se volete scriverci potete farlo a montocredio@gmail.com. Ok, e stasera parleremo di New Weird America. Bravissima. Il termine New Weird America descrive un movimento musicale del XXI secolo. È una musica, prima di tutto, folk psichedelica. Comunque il termine fu coniato da David Keenan nel numero dell'agosto del 2003 su The Wire, a proposito del Battleboro Free Folk Festival, organizzato da Matt Valentine. Ed è una parafrasi di un termine usato da Grail Marcus, Old Weird America, usato nel suo libro Invisible Republic, Bob Dylan's Basement Tapes, poi intitolato The Old Weird America. Usò il termine per descrivere l'atmosfera eerie, cioè inquietante, del country blues e folk nelle musiche, appunto, dell'Anthology of American Folk Music. E anche per descrivere Bob Dylan's Basement Tapes, registrato da Bob Dylan nel 1967 con componenti di una band chiamata The Band. Quindi io direi di ascoltare prima di tutto, introduzione, sì, Bob Dylan con Hills of Mexico. Was in the town of Griffin. A well-known famous thriller. Was in the town of Gifford. Up to me and tight, saying, how do you do, young cowboy, and how'd you like to go spend the summer pleasantly in the hills of Mexico? Well, me being out of work right then, to this booger I did say, well, it's going out on the buffalo range depends upon your pay. But if you pay good wages, transportation to and fro, think I might go with you to the hills of Mexico. There we crossed the laughing river bars, our troubles they've begun. E quindi questo era Bob Dylan con Hills of Mexico. Ma era un live? No, sono praticamente delle registrazioni live, sì, quello sì. Però delle registrazioni fatte per andare su delle cassettine praticamente. Quindi il fatto di avere magari dei rumori in sottofondo non era un problema, ma anzi contribuiva all'atmosfera che appunto caratterizza il New Weird America. Dunque, il termine viene ripreso da David Keenan su appunto The Wire a proposito del Brattleboro Free Folk Festival che si tiene nel Vermont, che in realtà è molto difficile da scoprire quando e dove perché non hanno un sito né niente. Però ma adesso lo fanno ancora questo festival? Dovrebbero sì, farlo ancora. Ci possiamo andare quest'anno? Sì. E ricordiamo che The Wire è una rivista di musica di avanguardia fondata nel 1982 dal produttore jazz Anthony Wood e dal giornalista Chrissy Murray. Inizialmente concentrato sul jazz contemporaneo e musica di improvvisazione, dal 1990 circa si è specializzato in post rock, termine coniato da Simon Reynolds sulle pagine di The Wire, di cui ovviamente consigliamo Marta. Non stavi ascoltando. Non è vero. Simon Reynolds, Rip It Up and Start Again. Sì. Il post-punk. Sì. Dal 1978 all'84, un libro speciale che Marta sicuramente conosce, ma in questo momento gli ci sfugge, diciamo. E comunque consigliamo. E comunque questa rivista, diciamo, sia online che cartacea, progressivamente ha poi trattato l'hip hop, la musica classica moderna, la musica di improvvisazione e diverse forme di musica elettronica. Al giorno d'oggi la rivista continua a coprire quasi tutti i generi e altre forme di musica sperimentale, in maniera seria e poco autocelebrativa, che spesso io apprezzo. Con chicche e letture più sociologiche, ed è comunque una rivista che io consiglio vivamente. Riuscite a trovarlo su www.thewire.co.uk, che Marta posterà a brevissimo sul blog. Questa settimana, tra l'altro, trovate Wadata Leo Smith, che è un trombettista e compositore che ha visioni interessanti. Di cui faremo una puntata. No, magari sul suo ispiratore sì, che è Sun Ra. Ah, ok. Quindi Brian Coley, che è un altro che scrive sempre su The Wire, in un articolo di qualche mese fa, ha individuato in John Farley uno dei massimi esponenti del genere, appunto, New Weird America, di cui vi stiamo parlando stasera, in maniera un po' così, però è quello. John Farley è il musicista morto nel 2001 che ha lasciato un segno importante, appunto, proprio perché viene riconosciuto come... spesso è stato etichettato come musicista folk, però in realtà era un termine da cui cercava di allontanarsi. Infatti John Farley forse ha individuato, forse ha dato coraggio a tutti quei gruppi nati come folk, ma che in realtà volevano esprimersi, aprirsi ad altro e che appunto durante gli anni 60 non si riconoscevano più nella Old America come quella di Bob Dylan, appunto, in quanto dimostravano interesse anche per altri generi. Facciamolo sentire un pochino, mentre parli. E quindi, no, infatti, quindi facciamo ascoltare lo un stiamo pezzo, già un po' ascoltando. Sì, lo stiamo ascoltando in sottofondo. Dance of the Palace, che è appunto un pezzo di John Farley che suona la chitarra appoggiandola verticalmente sulle gambe da seduto. E la suona così la chitarra. Ascoltiamolo. Ascoltato un pezzettino di Dance of the Palace da John Farley, un pezzo dove lui suona appunto la chitarra verticalmente. L'avresti mai detto, Marta? No, però forse non mi piace tantissimo, un po' noioso. Perché è acustico? È tutto strumentale. Tutto strumentale. Tutto, sì, tutto quello che ha fatto è strumentale. Sì. Caspita. Invece ti parlo di una cosa che di un artista che mi piace. Ok. No, che piace anche a me. Anche a te. Sì. Che è uno dei maggiori esponenti del New Weird America, Devendra Banhart. Forse quello che ha dato più visibilità. Sì, sì, sì, sicuramente a lui. Devendra Banhart, un po' la conosci la sua storia? Un pochino, però se me lo spieghi... Te lo racconto, te lo racconto. Allora, Devendra Banhart è classe 1981, quindi giovanissimo. È giovanissimo. No! Sì, sì. Questo non lo dovevi dire. Lui, dopo il divorzio dei genitori, si trasferisce con la madre a Caracas, in Venezuela, dove trascorre la sua infanzia. In seguito al secondo matrimonio della madre, si sposta a San Francisco. Qui si iscrive all'istituto d'arte e coltiva la sua passione per il disegno e la pittura, tanto che molti artwork li cura lui stessi. Tra l'altro c'è stata, mi sa, qualche anno fa una mostra di Devendra a Modena, se non mi sbaglio. A Modena? Sì, sì. Vabbè, tornando a Devendra, dopo il suo arrivo a San Francisco inizia a suonare in alcuni locali della zona fino ad approdare anche a Los Angeles. Proprio a Los Angeles, una sera, si avvicina a lui dopo il concerto la fidanzata di Michael Gira, che, colpita dalla personalità delle canzoni dell'eccentrico ragazzo, decide di comprare per solo un dollaro una cassetta di Devendra, la porta subito a Gira, che a quel tempo aveva un'etichetta discografica chiamata Young God. E per Michael Gira è amore al primo ascolto. Tuttora, cioè adesso dichiara che non aveva mai sentito nulla del genere e che era come di trovarsi di fronte a canzoni lasciate abbandonate in soffitta dagli anni 30. È vero? Sì, sì, sì. Soprattutto ma i primi lavori. Tutto il movimento comunque New Weird America dà questa impressione, no? Sì, sì. Di qualcosa di ritrovato. E Gira cosa fa? Lo prende sotto la sua ala e nel 2002 esce il primo lavoro di Devendra, che si chiama Oh Mio Mai. Nel 2004 invece Devendra dà alle stampe due album, Rejoicing in the End e Niño Rojo, di cui avevamo già messo un pezzo nella puntata di Mike Simonetti, mi sembra. Addirittura. Sì, perché aveva registrato uno split con Jana Hunter per Troubleman. Per Troubleman Records Unlimited, che di appunto Mike Simonetti, sì, mi ricordo adesso. Abbiamo studiato bene, che ce lo ricordiamo. E vabbè, a questo punto vi faccio sentire il pezzo che dà il titolo al disco Rejoicing in the End, e si chiama appunto Rejoicing in the End. Era sì. Devendra Banhart con Rejoicing Dance, e in questa canzone canta assieme a Vashti Banyan, nota folk singer. Sì, che forse abbiamo non introdotto. Ma ne abbiamo sempre parlato in quella puntata. O forse anche su quello del Dream Pop, possibile? Non lo so, mi sembra sempre nell'altra. Okay. Però non sono sicura. Tra l'altro mi è venuto in mente che Devendra qualche anno fa, tipo 3-4 anni fa, ha lavorato proprio ad una compilation sul New Weird America per una rivista di cui ora mi sfugge il nome. E molto male. Niente, ha inserito 20 artisti rappresentativi del genere, tra cui Jana Hunter, Josephine Foster, eccetera, eccetera. E Devendra è un nome indiano, secondo te? Io mi ricordo di una dea o qualcosa del genere. Sì, avevo letto qualcosa. Comunque, nello stesso periodo che emerge un po' Devendra, emergono anche i Microphones, The Microphones, che è un gruppo lo-fi basato ad Olympia, in Washington, e ne abbiamo parlato, qui ti interrompo, ne abbiamo parlato nella serata sul concept album. Sì. In quanto The Microphones ha scritto il disco Monterey, che è un concept album. Sì. infatti io parlerò proprio di Monte visto. Marie. E, quindi stiamo troppo avanti anche per noi stessi. Comunque, quindi The Microphones sono un gruppo lo-fi basato ad Olympia, nel Washington, e cappeggiato da Phil Elvrum, penso che si dice così, che è collabora, anche l'unico componente del gruppo. Collabora con degli artisti, anche degli amici che lo aiutano comunque a, no, a fare i pezzi. Nel 2004 Elvrum annunciò di aver cambiato il nome del gruppo da The Microphones a Mount Eerie, a seguito del disco appunto dei Microphones, chiamato appunto Mount Eerie. È un gioco un po' così vizioso, per l'etichetta tra l'altro K Records nel 2003. Anche se poi ci saranno altri album attribuiti a The Microphones, infatti adesso sono tutti un po' confusi su se The Microphones come progetto è morto oppure se ancora, insomma, uscirà qualcosa. L'album e poi il gruppo, appunto Mount Eerie, prende il nome dalla località nel Fidalgo Island, dove Elvrum appunto trascorse l'infanzia. Contiene 5 canzoni che seguono la pubblicazione, dunque la storia di Elvrum, che si sviluppa da The Glow Part 2, l'album precedente, ad appunto Mount Eerie. Elvrum nella storia dell'album muore, viene mangiato dagli avvoltoi e poi scopre la faccia dell'universo. E rappresenta un momento di svolta nel lavoro e nella vita di Elvrum, anche se è considerato secondario dai critici rispetto a The Glow Part 2. Che è molto bello. Sì. Mount Eerie viene riconosciuto per soprattutto la produzione e per la scrittura immaginativa e libera, che forse caratterizza tutto il New Weird Folk. Quindi andiamo ad ascoltare Mount Eerie la canzone si chiama Mount Eerie Day, The Microphones. I'm on a boulder over alpine tops, I'm peeking. I watched you across the water. forse una delle cose più belle appunto di questo disco è che cambia in continuazione, no Marta? Sì, sì. È un po' destabilizzante anche. Destabilizzante perché ti abitui a un movimento e poi ne sopraggiunge un altro. Continuiamo ad ascoltarlo. Ok, però prima diciamo che siamo su Città del Capo, Radio Metropolitana. Ok. Each bite into our light since begging of love now into you and feathers from skin begin. Quindi questo era Mount Eerie dei The Microphones con The Microphones. Sì, giusto così. Mm. Invece adesso parliamo delle Coco Rosie, un gruppo inedito. No. No. Non direi. Però sempre molto bello da ascoltare, quello sì. E ti racconto anche la loro storia, la conosci la loro? No, vai. Sentiamo la storia delle Coco Rosie. Allora, Sierra e Bianca sono due sorelle americane con sangue Cherokee. Sierra è la maggiore, è nata in Iowa e Bianca invece è nata nelle Hawaii. La madre aveva dato loro come soprannomi rispettivamente Rosie e Coco. Ecco perché il nome del gruppo. La madre era un'insegnante e un'artista, si spostava compulsivamente da uno stato all'altro del paese portando le figlie con sé. Il padre invece era praticamente un estraneo e viaggiava per tutti gli Stati Uniti insegnando nelle scuole Waldorf Steiner. Steiner. Ok, sì, infatti siamo adesso collegato. Quelle un po' hippie. Quelle, no, non devi studiare, te la devi sentire. Tu l'hai frequentata? No, stronza. No, dicono che comunque per alcune... Beh sì, anche la Marina Berlusconi mi pare abbia fatto... No, non la Marina, la Barbara. Non ci credo. Sì. Così ho letto nelle mie riviste. Nelle tue riviste. Sì. Vanity Fair, eccetera. Proprio quelle. Quindi stavo dicendo che il padre era un insegnante nelle scuole steineriane ed era coinvolto nel sciamanesimo e nel peyotismo. Ovvio, no? Ovvio. Sierra e Bianca... Cosa fanno? Spendono praticamente tutte le loro vacanze estive vagando con lui da una riserva all'altra. Però quando Sierra ha 3 anni e Bianca 5, i genitori divorziano. E, all'età di 14 anni Sierra viene buttata fuori casa dalla madre e mandata a vivere con il padre. Durante questo periodo della sua vita Sierra cambia scuola quasi ogni anno e perde i contatti con la sorella, con la quale non va molto d'accordo. Nel 2000, all'età di 20 anni, Sierra si trasferisce in un piccolo appartamento a Montmartre, Parigi, per tentare la carriera come cantante d'opera studiando al conservatorio. Nel frattempo, Bianca, rimasta negli Stati Uniti, studia linguistica e sociologia, inseguendo le sue passioni per le arti visive e la scrittura. Hai mai visto delle cose di... No. Io sì. Bravo. Grazie. Nel 2003 Bianca inizia ad essere inquieta e decide che è giunto il momento per un cambiamento. Lascia il suo appartamento di Brooklyn per viaggiare in giro per il mondo, inaspettatamente, dove fa capolino, proprio nell'appartamento di sua sorella. Guarda caso. Sì, sì. È la prima volta quindi che le sorelle si incontrano dopo quasi 10 anni. Mamma tu mia. Ci credi a questa storia? Io no, non ci ho mai creduto. Beh, carina, dai. Però Marta. Dai, questa sera vogliamo crederci. Sì. E cosa succede nell'appartamento? Che nel corso dei 2 mesi successivi le ragazze passano quasi ogni ora delle loro giornate nel bagno del piccolo appartamento. Sì, questa è la storia. Ma aspetta, ti spiego anche perché. Perché era eletta la stanza meglio isolata e con l'acustica migliore di tutto l'appartamento. In brevissimo tempo registrano 2 dischi. Uno hip hop, però mai rilasciato, che si chiama World to the Crow. E un secondo che costituisce invece il loro vero e proprio album di debutto, La Maison de Mon Rêve. Ma allora ti faccio sentire Good Friday, che è una canzone proprio del primo disco delle Coco Rosie. Good Friday. Carino. E a proposito di storie particolari, ti racconto anche quella di Alela Dayan. Mm-hmm. La conosci lei? No. Zero? Quindi dimmi tutto. Ti racconto tutto. Però tutto. In 3 secondi. No, impossibile in 3 secondi. Alela Dayan invece è classe 1983. Come noi. No. Sì. No, io no. È californiana di Nevada City e figlia di 2 musicisti. Cresce quindi con la presenza costante della musica. Quando ha 19 anni accadono tante cose. Va a San Francisco, ma non fa in tempo a sistemarsi, che i genitori si separano e vendono la casa dove era cresciuta. Sono tutti separati. Tutti quindi. Separati. Delle storie tristissime e tragiche. C'è di peggio però, Marta. Ero ironica. Cosa succede quindi? Che Alela, così sradicata di colpo, comincia a suonare e a scrivere canzoni sul serio questa volta. Nell'estate del 2004, con i pochi soldi che l'aspettano della vendita della casa, se ne va nel sud della Francia, anche lei vede in Francia, e va a Londra e a Parigi, fa vita raminga e scrive quasi tutto The Pirates Gospel. Finalmente, con la mente pacificata, torna a casa nelle colline dove era nata. Cosa ridi? Scusa. Cosa ti fa ridere? Vabbè, niente. Registra le canzoni scritte nelle sue peregrinazioni europee nello studio del padre. Va a vivere in una capanna di tronchi nella proprietà della famiglia di Mary Sioux, sua amica del cuore e cantante anch'essa. Tanto potrebbe che essere la tua migliore amica, Marta. Sì. Tanto che non interrompere. La troviamo, questa Mary Sioux, in varie tracce di The Pirate Gospel. E Alela, per mantenersi, lavora anche come cameriera in un caffè. Poi si trasferisce nell'Oregon e comincia a fare concerti. Comincia anche a visitare altre città suonando. Però continua sempre a fare la cameriera. Nel frattempo prepara in più riprese 650 copie del suo CD, piegando le buste di carta, disegnandole una ad una, con inchiostro di china e decorandole con merletti fatti sempre da lei. Che simpatico. No, non dai. Non so se è simpatica proprio la parola. Ma esatta. Sì, è bellissimo. Io vorrei. Sicuramente è una dedizione che. Io vorrei avere. Vorrei avere una di quelle 650 copie. Sì, quello sì. Sì. Però quella è possessività materialistica. Ma non è vero, non è vero. Vabbè, fatto sta che poi The Pirate Gospel viene riscoperto 2 anni dopo, viene rimasterizzato e viene distribuito. Ti faccio sentire la canzone omonima, mm-hmm. The Pirate Gospel. Dancing, I'm gonna keep my eyes wide open. ho, ho, yo, ho, ho. Yo, ho, yo, ho, yo, ho, ho. Sing the pirate's gospel. Sing the pirate's gospel. Quindi questa era Alan Diane con The Pirate's Gospel. Sì, bravissima. Molto carina. Molto. Ricordiamo che siamo su Moontalk, Città del Capo, Radio Metropolitana, 94.7, 96.250. Se volete le scalette e le puntate stesse le mettiamo sul nostro blog, che potete trovare su moontalkradio.blogspot.com. Altrimenti, se avete richieste particolari, potete farlo scrivendo a moontalkradio@gmail.com. Sì. E Alela, come ti dicevo prima, è della città del Nevada City, nello stato della California, che conta una popolazione di 3.001 persone. Questo è un dato di ieri. No, è un dato dell'ultimo censimento, però. Bravissima. Hai visto? Marta è preparata. Di queste due... di queste 3.001 persone, due appartengono a... Allora, una è la Diane e l'altra sai chi è? Joanna Newsom. Ah. Sì. Di cui abbiamo già parlato molto. Sì, abbiamo perché messo qualche pezzo. Sì, qualche pezzo l'abbiamo messo. E vabbè, questo fatto che due stelle del folk siano dello stesso paese non deve sorprendere più di tanto, perché il paese di Nevada City si trova a metà strada fra Reno, stato del Nevada, e Sacramento. È rifugio di artisti ed hippie da quando le miniere hanno chiuso. Mm-hmm. Tu lo sapevi? Non lo sapevo. No, non lo sapevo, però vabbè, spesso succede che poi quando città industriali o comunque... No, utilizzate in un certo modo, poi vengono svuotate, poi vengono riempite. Abbiamo appunto parlato nell'ultima puntata. Infatti. Del periodo degli anni 70, a cavallo tra gli anni 70 e 80, dove appunto New York va in una grave crisi economica e moltissimi spazi vengono appunto occupati da artisti e da musicisti. Sì. con pochi soldi, ma con tanta voglia di fare. Sì, sì, sì. Anche la Newsom è giovanissima, classe 1982, e è stata istruita a suonare l'alpa celtica da un insegnante locale proprio di Nevada City. Successivamente è passata all'arpa pedale e ha cominciato a comporre in proprio. I media l'hanno spesso etichettata come uno dei più importanti elementi del moderno movimento psych folk, anche se essa non accetta di essere collegata a nessun movimento musicale in particolare, vabbè, come capita spesso, insomma. Sì, posso dire solo una cosa? Sì. Che appunto siamo passati da New Weird America a psych folk, ed è forse quello che è successo negli ultimi 10 anni. Sì, infatti. Quando il folk, cioè io e Marta abbiamo una teoria. No? raccontaci la teoria. Sul fatto che appunto molti artisti durante gli anni, cioè negli ultimi 10 anni, sono stati influenzati da quello che viene chiamato il tropical movement. Non so. Beh, sì. È etichettato come genere che è appunto molto tribale, è una che si rifà magari all'uso di drum machine, ma lo anche si ritrova più percussioni, sulla East Coast, però no. Che si ritrova, sì, che è nato e che è molto vivo in New York, no, però, West Coast, quindi West Coast, sì, sì. però diciamo che è un genere che va moltissimo adesso. E quindi secondo noi il folk è stato, diciamo, influenzato da questo movimento e quindi ha preso, non se il New Weird America voleva esplorare, però aveva sempre una base folk, forse la psych folk non ha soltanto la folk come base, ma anche... Sì, però la Newsom... Al massimo introduce l'arpa celtica, non sicuramente delle basi elettroniche. Sì. No, quello infatti... Quindi rimandiamo questo quindi discorso tra due pezzi. Un altro po'. Ci ragioniamo ancora un po' su, sì. Ah sì, stavo dicendo come l'hanno etichettata i media. Tra l'altro anche proprio Wire, di cui abbiamo parlato prima, ha descritto la sua voce come inaddomesticabile, con ombreggiature di folk e timbri di nota basati sulla musica appalachiana. La Newsom ha comunque espresso disappunto ai commenti che descrivono la sua voce come infantile. Sì, questo lo ricordo benissimo perché tu avevi detto che eri andata a vederla e che pensavi che... Sì, risulta meno... Se magari in disco alcuni la possono trovare un po' sgradevole, dal vivo assolutamente no. Ti faccio sentire una canzone del nuovo disco che uscirà il 23 febbraio. Che bello, quindi siamo emozionatissime. È un triplo disco che si chiama Have One On Me e chissà quando uscirà in Italia, ancora non si sa. Beh, magari lo riportiamo, Marta. Sì, assolutamente sì. E ti faccio sentire l'unica traccia che circola per la rete, a parte qualche live, che si chiama 81. Found a little plot of land in the garden of Eden. It was dirt and dirt is all the same. I tilled it with my two hands and I called it my very own. There was no one to dispute my claim. Will you be shocked at the state of things? The whole place had just cleared right out. It was harder than hell, so I lay me by the spring forest bell as naked as a trout. Questa era Joanna Newsom con 81, tratta dal nuovo disco che uscirà il 23 febbraio, Have One On Me. Che Che bello. È molto, molto bella la canzone. Mm. Infatti io attendo la, promette bene. Il triplo disco con ansia. Un altro gruppo che viene classificato adesso Psych Folk, che ancora io e Marta... Ci stiamo riflettendo, ma forse perché Joanna Newsom, appunto, con la voce un po' diversa da quella che aspetteresti dal folk, no? In quel modo, magari sì. Ma dai, non per forza, cioè se tu pensi anche alla voce di Devendra, che ricorda un po' la voce del primo Mark Bolan, è sempre così un po' infantile, molto flebile. Non lo so, secondo me ci dobbiamo ragionare ancora qualche okay. giorno. Comunque, parliamo degli Animal Collective, che tra l'altro sono uno dei gruppi che ho messo come miglior disco. Sì, sono presenti nella 2009. Moon Top. Moon Top, esatto. Gli Animal Collective sono un gruppo experimental rock di Baltimora, quindi Maryland, formatosi nel 2000 a New York invece. Attualmente la band è composta da Evie Ter, Panda Bear, Deacon e Geologist, che sono rispettivamente nomi d'arte, di David Portner, Noel Lennox, Josh Gibbs e Brian Wells. Le produzioni realizzate sotto il nome di Animal Collective appunto possono includere contributi da ognuno dei membri. La lineup quindi non è costante, ma cambia ad ogni progetto. Il genere musicale della band quindi è difficilmente descrivibile in modo preciso, poiché i componenti amano sperimentare nuovi stili e idee diverse per ogni album, a partire dalle primissime composizioni effettuate a una giovanissima età. Anche loro sono tutti molto giovani stasera, come noi. No, noi ancora di più, Marta. Nonostante ciò, sono spesso classificati come psych folk, appunto, e noise rock. Io andrei ad ascoltare il pezzone del 2009. Presente in tutte le classifiche possibili, immaginabili. Mi stai dando della monotona? No. Quella della copiona? No. Peggio ancora. Io non ho detto niente di simile. Comunque è un bellissimo pezzo, appunto, Animal Collective, My Girls. We'll be right back. social stats. I just want four walls and a door to be set for my girls. I don't need, seem like I care about material things like a social stats. Questi erano gli Animal Collective con My Girls. Bellissimo. Ci ha fatto riprendere un po', no Marta? Sì, sì, io mi ero... No. No. Niente. Allora, Deacon, che è appunto Joss Gibbs degli Animal Collective, al momento è in Mali in quanto invitato a suonare nel festival nel deserto, che si chiama Festival au Désert, che trovate sul sito www.festivalaudesert.org, che si tiene ad Essankene nel Mali, nel bel mezzo del Sahara. Da questa opportunità Deacon intende creare un libro ed un CD edizione limitata descrivendo la bellezza ma anche le problematiche del Mali e della popolazione Tuareg, e quindi fare un po' di fundraising attraverso appunto la vendita di libretti e dei CD per sostenere le organizzazioni che combattono per l'abolizione della schiavitù che infligge la popolazione Tuareg, appunto. Verrà tutto documentato e per maggiori informazioni potete andare su www.inspirationcommunity.org. Quanto sono segnato. Brava. No, che poi tu posterai sempre. Posto tutto. Però secondo me è interessante sapere che adesso è nel Mali, no? Sì, sì. In questo festival nel deserto. Molto. Nel Mali, Marta. Non vorresti essere nel Mali adesso con Deacon? Sì. Comunque, dopo gli Animal Collective passiamo ad Ariel Pink, che in realtà si chiama Ariel Marcus Rosenberg, musicista avant-garde di Los Angeles, molte volte associato alla scena freak folk, appunto, che ancora adesso niente. Comunque, prima o poi una spiegazione di freak folk ci verrà fuori. Viene introdotto appunto gli Animal Collective dopo un loro concerto da un amico comune, i quali agli Animal Collective avevano appena messo su una loro etichetta chiamata Paw Tracks, e quindi Ariel Pink fu uno dei primi artisti a registrare per loro. Pink ha gradualmente acceso l'attenzione dei media statunitensi e non, in quanto ha un seguito appunto molto cult tra musicisti famosi e non per i suoi album fatti un po' in casa, cioè riprende anche un po' il, se vuoi, il lo stile di delle cassette di Bob Dylan. E gli album che sono commercialmente disponibili vengono dal suo progetto Haunted Graffiti. E comunque in novembre scorso Pink ha lasciato la Paw Tracks per la 4AD, che è un'etichetta di cui abbiamo ampiamente parlato nella puntata, sì, sul Dream Pop, proprio perché viene vista come una delle etichette che ha un po' sostenuto tutto il movimento. Quindi io direi di andare a sentire Life in LA, appunto, Area Pink da, Haunted Graffiti. Haunted Graffiti, molto bello. Sì, dei pezzi bellissimi. Purtroppo sembra che live non sia proprio così. Sì, me l'hanno detto diverse persone. E lui dice che appunto i suoi pezzi non sono fatti, insomma, per essere esibiti live. Un po' la sua scusa. Dai, ci sta, è un freak, no? No, ma ci sta benissimo. Ma poi se lui è sincero, lo dice, non c'è niente di male, te lo devi aspettare se lo vai a vedere, no? Infatti. Comunque, per la Domino Records invece abbiamo Cass McCombs, che l'anno scorso ha registrato questo disco chiamato Catacombs, che è anche bellissimo. Quello molto bello, infatti forse non ce l'abbiamo noi. Non l'abbiamo nella montagna. Non l'abbiamo considerato, peccato. Vabbè, comunque... Se che... fosse stata da 20, 10 a testa, magari infatti. Ci entrava. Sì, sì, sì, assolutamente. Sì. Da cui ascoltiamo Dreams Come True Girl, che è un pezzo molto dolce. Cass McCombs, ricordiamo, un musicista americano divenuto famoso con l'album Dropping the Rit. Nel 2005 andò in tour con i Modest Mouse e appunto il nuovo album si chiama Catacombs per Domino Records. You're not my dream girl. You're not my reality girl. You're my dreams come true girl. All the troubles in my past, have only made my immunity strong. You're not my dream girl. You're not my reality girl. You're my dream. questa è Dreams Come True Girl dei Cass McCombs con Karen Black, che un'attrice. È un'attrice statunitense, candidata tra l'altro all'Oscar nel 71 per 5 pezzi facili. E poi compare anche in Nashville, Jimmy Dean, in diversi film di Altman. Sì, e Complotto di famiglia, l'ultimo film di Hitchcock. Poi tra l'altro Easy Rider e poi che cos'altro? Il Grande Gatsby. Insomma, ha fatto di tutto. Beh, hai visto il video della canzone? No, mettiamo anche quello nel blog. Ah, vabbè, l'ho messo anche su Facebook, Marta. Scusami. Tu non guardi quello che metto io. Vabbè, comunque compare anche nel video. È molto brava. Ha una voce anche bellissima. Sì. E concludiamo questa puntata di Moon Talk. Su, ricordiamo, New Weird America. Possiamo anche dare i nostri recapiti? Sì. www.moontalkradio.blogspot.com e poi la Gmail moontalkradio@gmail.com e su Facebook ci trovate solo come Moon Talk così. Concludiamo questa puntata con i Grizzly Bear, presenti invece nella Moon Top. Sì, nella Moon Top. Top. Il disco ci è piaciuto molto. Sì. Anche se secondo me non è tutto bello. Cioè ci sono dei pezzi un po' difficili da ascoltare. Beh, sì, magari... Cioè io tutto lo trovo un po' pesante, però alcuni pezzi sono veramente belli. Mm. Quindi questa sera però vi faccio sentire un pezzo che mi piace molto del disco, che si chiama Readable. Ok, e quindi ci risentiamo poi la prossima mercoledì con, abbiamo deciso, Electro Scandinavo. Sì, sì, sì. Quindi sì. Usciamo dagli Stati Uniti. Facciamo concorrenza ad un altro programma di Città del Capo. Che tra l'altro la stessa sera. Infatti, sì. Poco prima, quindi ascoltatela dal mezzanotte e tre quarti in poi, non prima. No, dai, non dire così. Assolutamente dovreste ascoltare da Polaroid, appunto, dalle 9:30. 9:30 fino alle 2. Fino alle 2. Orecchie aperte, sì, ricettive. Attenti. Non è che fate altro nel frattempo. Ok, ci ascoltiamo Grizzly Bear con Readable, tratto da Becca Times. Ciao ciao.